ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Nona puntata. Sera d'inverno, fine gennaio, prima dell'ora di pranzo, prima dell'ora di visita. Sull'architrave della porta della sala d'aspetto era appeso un foglio di carta bianca su cui era stato tracciato dalla mano di Filip Filippovic: proibisco che nell'appartamento vengano mangiati semi di girasole. F. puntato Probacensky. E con la matita blu a lettere grosse come pasticcini, dalla mano di Bormental: si proibisce di suonare strumenti musicali dalle 5 del pomeriggio alle 7 del mattino. Quindi, dalla mano di Zina: quando torna, dica a Filip Filippovic non so dove è andato. Fyodor ha detto che era in compagnia di Schwonder. Dalla mano del professore: devo aspettare il vetraio per un secolo? Dalla mano di Daria Petrovna in stampatello: Zina è andata al negozio, ha detto che lo porterà lei. In sala da pranzo sembrava che fosse già sera, per via della lampada dal paralume color ciliegia. La luce dalla credenza cadeva come spezzata in due. I vetri a specchio erano stati incollati da un lato all'altro con strisce di carta che formavano una croce storta. Filip Filippovic, chino sul tavolo, era immerso nella lettura di un enorme foglio di giornale aperto dinanzi a lui. Il volto era deformato da lampi, e tra i denti sibilavano brandelli di parole monche, gorgoglianti. Stava leggendo un trafiletto. Non esistono dubbi a proposito del fatto che si tratti di un suo figlio illegittimo, come ci si esprimeva nella corrotta società borghese. Ecco come se la spassa la nostra borghesia pseudocolta. Sono capaci tutti di occupare sette stanze fino a quando la spada lucente della giustizia non farà lampeggiare su di loro i suoi raggi rossi. Schwonder. Con molta insistenza, con abilità baldanzosa, al di là di due pareti stavano suonando la balalaica e il suono della variazione virtuosistica di Splende la luna si mescolava nella testa di Filip Filippovic alle parole del trafiletto, formando un'odiosa poltiglia. Terminata la lettura, con gesto deciso, sputò dietro le proprie spalle e macchinalmente canticchiò a bocca socchiusa. Splende la luna, splende la luna, splende la luna. Qua mi si è appiccicata, maledetta melodia. Suonò il campanello. La faccia di Zina si insinuò tra i tendaggi che rivestivano la porta. Digli che sono le 5, che la smetta, e mandamelo qua, per favore. Filip Filippovic sedeva in poltrona accanto al tavolo. Tra le dita della mano sinistra sporgeva un mozzicone marrone di sigaro. Accanto ai tendaggi, appoggiato all'architrave della porta, stava in piedi, una gamba incrociata sull'altra, un uomo di bassa statura e dall'aspetto poco simpatico. Sulla testa i capelli gli erano cresciuti ruvidi come cespugli su un campo dissodato e sulla faccia c'era una peluria non rasata, come erba in un prato. La fronte stupiva per la sua bassezza. Quasi immediatamente al di sopra dei ciuffetti neri delle sopracciglia ben separate cominciava la fitta spazzola dei capelli. La giacca lacerata sotto l'ascella sinistra era cosparsa di paglia. I calzoncini a strisce erano strappati sul ginocchio destro e sul sinistro avevano una macchia color lilla. Al collo dell'uomo era annodata una cravatta di un azzurro brillante con una spilla di rubini falsi. Il colore di questa cravatta era a tal punto sgargiante che di quando in quando, socchiudendo gli occhi affaticati, Filip Filippovic, nella completa oscurità, ora sul soffitto, ora sulla parete, vedeva una fiaccola fiammeggiante con una corona celeste. Aprendoli, era nuovamente accecato, dato che dal pavimento, spruzzando una sventagliata di luce, gli stivaletti di vernice con le ghette bianche erano un pugno nello stomaco. «È come se avesse le calosce», pensò con una sensazione sgradevole Filip Filippovic. Sospirò, si mise a sbuffare e poi prese a occuparsi del sigaro che s'andava spegnendo. L'uomo accanto alla porta, con occhi torbidi, sogguardava il professore e fumava una papirosa, cospargendosi di cenere il davanti della camicia. Lo L'orologio a muro appeso accanto a una pernice di legno batte le 5. Al suo interno qualcosa stava ancora gemendo quando Filip Filippovic diede inizio alla conversazione. Se non sbaglio, ho già chiesto per ben 2 volte di non dormire sul tavolaccio in cucina, a maggior ragione durante il giorno. L'uomo tossì rauco, come se gli fosse andato di traverso un ossicino, e rispose: in cucina l'aria è più gradevole. Aveva una voce insolita, piuttosto sorda e al tempo stesso sonora, come venisse da una botticella. Filip Filippovic scosse il capo e domandò: dove è andato a pescare quella schifezza? Sto parlando della cravatta. L'ometto, seguendo con gli occhi il dito, li storse oltre il labbro e sogguardò teneramente la cravatta. Come sarebbe schifezza? Questa cravatta chic me l'ha regalata Daria Petrovna. Daria Petrovna le ha regalato una porcheria, proprio come gli stivaletti. Che razza di stupidaggine luccicante sono mai? Comprare stivaletti come si deve. E questi invece cosa sono? Possibile che il dottor Bormental abbia scelto delle cose simili? Gli avevo ordinato di prenderli di vernice. Cos'è, sono forse peggio degli uomini? Vada un po' a farsi un giro al Kunienski. Hanno tutti le scarpe di vernice. Filip Filippovic girò la testa e disse con fare autorevole: basta dormire sul tavolaccio, capito? Cos'è questa sfacciataggine? Così lei dà fastidio. Lì ci sono delle donne. La faccia dell'uomo si incupì ed egli spinse le labbra in fuori. Le donne poi, ma pensa, sarebbero delle signore, normalissime serve, ma con la spocchia della moglie di un commissario. È sempre Zinka che va a fare la spia. Filip Filippovic gli lanciò uno sguardo severo. La prego di non chiamare Zina Zinka, capito? Silenzio. Ha capito, chiedo. Ho capito. Levarsi quell'orrore dal collo. Lei, tu, lei, si guardi allo specchio, guardi cosa sembra. Una specie di farsa. Non buttare le cicche sul pavimento, è la 1000ª volta che lo chiedo. Che non senta più una sola parola ingiuriosa nel mio appartamento. Non sputare. Ecco qua la sputacchiera. Usare correttamente il pisciatoio. Mettere fine a qualsiasi conversazione con Zina. Si è lamentata. Dice che lei la spia al buio. Stia attento. Chi ha risposto a un paziente? Che cavolo ne sa? Pensa forse di essere in una bettola? Paparino, lei mi sta dando un po' troppo addosso, articolò all'improvviso l'uomo con voce piagnucolosa. Filip Filippovic arrossì. Gli occhiali mandarono un bagliore. Che c'entra qui questo paparino? Che cos'è questa familiarità? Che non senta mai più questa parola. Mi chiami con nome e patronimico. La faccia dell'ometto s'accese di un'espressione insolente. Ma che vi piglia a tutti? E non sputare, e non fumare, non andare di là. Ma che è sta roba? Sembra di essere in tram. Perché non mi lasciate vivere tranquillo? E quanto al paparino, non ha proprio motivo di parlare. Ho forse chiesto io di fare l'operazione? Abbaiò l'uomo sdegnato. Una bella storiella, davvero. Hanno acchiappato un animale, gli hanno tagliato a fetine la testa con un bisturi e adesso il risultato gli fa schifo. Io, se non sbaglio, non vi ho mica dato la mia autorizzazione per l'operazione. E nemmeno... Lo metto alzò gli occhi sul soffitto come per rammentare una qualche formula. E nemmeno i miei parenti. A quanto pare ho diritto di sporgere querela. Filip Filippovic fece tanto d'occhi. Il sigaro gli sfuggì di mano. Ma guarda che tipo! Gli sfrecciò per la testa. E così? Domandò socchiudendo gli occhi. Lei non sarebbe contento di essere stato trasformato in uomo? Lei forse preferisce ricominciare a correre da una pattumiera all'altra? A gelare negli androni? Beh, se l'avessi saputo! Perché sta sempre a rinfacciarmi la pattumiera? E poi ancora la pattumiera? Mi guadagnavo il mio bravo pezzo di pane. E se le fossi morto sotto i ferri? Che mi dici a proposito, compagno? Filip Filippovic! Esclamò Filip Filippovic con stizza. Io non sono un compagno per lei. È mostruoso. E intanto pensava, un incubo, un vero incubo. Già, certo, altro che, proferì l'uomo ironicamente e con fare trionfante mise avanti una gamba. Capiamo benissimo. Come potremmo essere suoi compagni? Ma figuriamoci. Non abbiamo mica studiato all'università noi altri. Non abbiamo certo vissuto in appartamenti di 15 stanze con tanto di bagni. Solo che adesso sarebbe il caso di smetterla. Al giorno d'oggi ognuno ha i suoi diritti. Filippo Filippovic, impallidendo, ascoltava i ragionamenti dell'uomo. Questo interruppe il proprio discorso e con fare dimostrativo si diresse verso il posacenere con la papirosa mordicchiata in mano. Aveva un'andatura ciondolante. Schiacciò a lungo il mozzicone nella conchiglia con un'espressione che stava chiaramente a significare «Ah ah!». Una volta spenta la papirosa, all'improvviso, mentre s'allontanava, digrignò i denti e si ficcò il naso sotto all'ascella. «Prendere la pulce con le dita! Con le dita!» gridò furioso Filippo Filippovic. «Non riesco a capire dove se le vada a pigliare!» «Cos'è? Crede forse che le allevi o che?» soffese l'uomo. «Evidentemente le pulci mi vogliono bene!» E a quel punto con le dita si mise a frugare nella fodera sotto alla manica e ne estrasse un batuffolo di ovatta leggera e rossastra. Filippo Filippovic rivolse lo sguardo alle ghirlande di gesso sul soffitto e prese a tamburellare le dita sul tavolo. L'uomo, giustiziata la pulce, si allontanò e si sedette su una sedia. Nel farlo, abbassate le mani, lasciò penzolare le braccia lungo i risvolti della giacchetta. I suoi occhi si storsero verso i tasselli del parquet. Si mise a osservarsi gli stivaletti e la cosa gli diede un immenso piacere. Filippo Filippovic guardò laddove risplendevano sprazzi di luce sulle punte smussate, socchiuse gli occhi e proferì: «Di quale altra faccenda mi voleva parlare?» «Ma che faccenda è faccenda? Si tratta di una cosa semplicissima, Filippo Filippovic. Mi serve un documento.» Filippo Filippovic sussultò leggermente. «Ah, diavolo, un documento. Effettivamente. Ah, già, ma non se ne potrebbe magari fare a meno?» La sua voce risuonava incerta e mesta. «Ma mi faccia il piacere», rispose con convinzione l'uomo. «Com'è possibile fare a meno di un documento? Questo poi no. Lo sa anche lei, a un uomo senza documenti è severamente proibito esistere. In primo luogo, il comitato di caseggiato.» «Che c'entra qui il comitato?» «Come sarebbe che c'entra? Ci si incontra, fanno domande. Quand'è che tu e Greggio ti vieni a registrare?» «Ah, signore Dio!» esclamò tristemente Filippo Filippovic. «Ci si incontra, fanno domande. Posso proprio immaginare quello che gli raccontate. Le avevo ben proibito di bighellonare per le scale.» «E cosa sono io? Un galeotto?» si meravigliò l'uomo e la consapevolezza del proprio essere nel giusto prese ad ardere persino nel suo rubino. «E come sarebbe a dire bighellonare? Le sue parole sono piuttosto offensive. Io vado in giro come tutti gli altri uomini.» Col che si mise a sgambettare per il parquet con i suoi stivaletti di vernice. Filippo Filippovic ammutolì, voltò gli occhi da un'altra parte. «Bisogna comunque cercare di controllarsi», pensò. Accostatosi alla credenza, bevve d'un fiato un bicchierino di vodka. «Va bene», proferì con più calma. «Qui bisogna stare ai fatti. Dunque, che dice questo suo meraviglioso comitato?» «E che deve dire? E non c'è motivo che lo insulti chiamandolo meraviglioso. Difende gli interessi.» «Gli interessi di chi, se mi è permesso chiederlo?» «Si sa bene di chi. Dell'elemento lavoratore.» Filippo Filippovic sgranò gli occhi. «Perché lei sarebbe un lavoratore?» «Beh, quel che è certo è che non sono un uomo della nuova politica economica.» D'accordo. E dunque che cosa le serve per difendere i suoi interessi di lavoratore? Si sa bene che cosa. Devo registrarmi. Dicono che non si è mai visto che una persona viva a Mosca senza essere registrata. E questo è uno. Ma la cosa principale è l'iscrizione alle liste di leva. Non voglio essere considerato un disertore. E poi il sindacato, il collocamento. Se mi è permesso saperlo, su cosa la dovrei registrare? Su questa tovaglia o sul mio passaporto? Perché bisogna ben tenere presente la situazione. Non dimentichi che lei, per così dire, è un essere che è apparso improvvisamente, una creatura di laboratorio. Filippa Filippovic parlava con sempre minor convinzione. L'uomo taceva trionfante. E va bene. Vorrà dire che alla fin fine bisognerà registrarla e in generale sistemare la faccenda secondo il progetto del suo comitato. Ma se lei non ha nemmeno un nome e un cognome? Lei è ingiusto. Un nome me lo posso scegliere con la massima tranquillità. Lo si stampa su un giornale e la cosa finisce lì. E come le piacerebbe chiamarsi? L'uomo si raddrizzò la cravatta e rispose: Poligraf Poligrafovic. Non faccia lo stupido, ribatté Filip Filippovic incupito. Le sto parlando seriamente. Un risolino sarcastico contorse i baffetti dell'uomo. C'è una cosa che non capisco, disse con fare allegro e assennato. Io non devo bestemmiare, non devo sputare, ma da lei non sento altro che stupido e stupido ancora. Evidentemente nella RSFSR, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, è permesso imprecare soltanto ai professori. Filip Filippovic si fece rosso di rabbia e nel riempirsi il bicchiere lo ruppe. Dopo aver bevuto un sorso da un altro bicchiere pensò: ancora un po' e si metterà a darmi lezioni e avrà perfettamente ragione, non sono in grado di controllarmi. Tornò al suo posto inclinando il busto in modo eccessivamente cortese e con ferrea fermezza proferì: chiedo scusa, ho i nervi scossi. Il suo nome mi è sembrato strano. Mi piacerebbe sapere dove è andato a pescarlo. Me l'ha consigliato il comitato. Hanno cercato col calendario, mi hanno chiesto quale volevo e io ho scelto. In nessun calendario può esserci nulla di simile. Piuttosto sorprendente, ridacchiò l'uomo, dato che se ne sta appeso nel suo ambulatorio. Filip Filippovic, senza alzarsi, si protese verso il pulsante sulla tappezzeria e alla scampanellata fece seguito la comparsa di Zina. Il calendario dell'ambulatorio! Seguì una pausa. Quando Zina fece ritorno con il calendario, Filip Filippovic chiese: dove? Si festeggia il 4 marzo. Mi faccia vedere! Ah, diavolo! Nella stufa, Zina, immediatamente! Zina, sgranando gli occhi spaventata, se ne andò con il calendario e l'uomo scosse il capo con aria di rimprovero. Mi favorisca il suo cognome. Acconsento a prendere il cognome che mi spetta in eredità. Come sarebbe in eredità? E cioè? Sharikov. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.